sempre l'appello che... Marco, dov'è? Non la fianco a te. Ah, boh, e chi l'ha visto? Non l'ho né visto né sentito. Capito. Va bene, va bene. Ah, ci picchio. Lui è sempre indaffarato, con due cosette. Sarà andato a prendere due cosette, boh. Oppure dalla fidanzata lì a Platamona. È un pescio, dove vai a Platamona? No, non è bella la giornata. E poi si è messo chissà in casa io. No, anch'io stamattina ho lavorato, ma all'una ero già a casa. E stamattina c'era freddo, c'avevo la felpa grossa. Capito. Ho spento il televisore che se no si sentiva anche lui. A te l'immagine, ieri mi sono mezzo azzuffato con uno, o lui, e stanno sempre rompendo le scatole qua. Ora, perché? Cazzo, se poi c'è pure un microfono, anch'io, con la colonnina, pure la vacona, fa casino. La giusta di signoria finita, si alza e ci va, ragazzi, gatti, guarda. La stava quando faccio qui, io sto cazzo, se c'è il bilancio, la giudizio. Sì, ma perché ha fatto questo show? A quale titolo? A titolo che sono gente, cazzo, in civile, boh, non so neanche classificarli, guarda. Cazzo, si sa, si arrivi dall'antenna, viene la vista a casa, devo si fare tutta una busivata. La giudizio, guarda, ma mi hanno rotto le balle. Ma che fastidio sta dando con l'antenna, non ho capito io. Non ho capito che fastidio sta dando. Non capisco, ho detto che si intruglio che fa vite prima. In chi è alcanzata la vacona? C'è un'antenna, basta, è un'antenna, una semplice antenna, non dà fastidio a nessuno. Eppure, boh, non lo so, questa gente sta rompendomi le scatole. Speriamo che non arriviamo a punto brutto, che piglia per i rufusili e porto casino, qua, ma no, ma non ho rotto le scatole. Cazzo, voglio vedere se mi vado in i drommi, gliel'ho detto, io sono malato di cuore, non mi posso adirare la giudizio, lasciami perdere. Sì, sono proprio gente in civile, veramente. Gente in civile, veramente, non riesco a capire perché si stanno comportando così, a quale titolo, cosa nani, non so. Sono mezzo imbriachi, non lo so, boh, perché sa, no, non è uno che parla così. Capito? Dopo vi era pure chi d'altro delinquente di sopra, il gatto che ha preso me, le hai c'è in dietro, mi dice che faccio la bisciura, chi gli tu, so che un'attenzione non ci va a ammazzare balle, a chi si nobito lo ghio. No, pure, e manca di muoviti diversamente, cioè non... non so, io li avrei chiamati i carabinieri, giusto così, no? Non sapendo leggere né scrivere, capito? Io avrei detto che questi signori ti stanno istigando, ti stanno provocando e... capito? Cioè, di cosa volevo fare? Non ci vengono, li ho chiamati due o tre volte, non ci vengono, né la polizia né i carabinieri. Voi siete, hanno sentito di rubato, allora dici perché è successo, come perché è successo? Vi ho chiamato mille volte, non ci siete mai venuti, capito? Quanti volte in televisione, no? Uia, tutta lì, non so cosa dirti, non so cosa dirti, guarda, l'antenna è meglio di così, non si può montare. In altre parti non si può montare, se allora era fastidio perché è montata così in facciata. Non credo, perché è montata benissimo, non dà nessun fastidio, la facciata è la tua, quindi non ho capito. Oi, qua non so più come comportarmi, non ne la tiro questa antenna, non lo so, boh. Io non voglio avere rompimento di scatole di nessuno. Adesso basta. Mi hanno buttato a ragionare male i burroni. Ma quando gliela togli dai vita a loro, per che cosa? Poi ti metti un antennino nella finestra a fare che cosa? Ti dici una matessa cosa, non devi pulire più nulla, se ne lavori, ti torna a vendere tutto e basta. ne fa, è finito, boh, e sta tutto il giorno lì a casa grattandoti i pollici per che cosa? Per dare la vita a loro, ma manco balle balle. E intanto non lo posso usare, non hai visto che devo stare cata con un vate, devo stare, non posso fare nulla. Cosa? Patrata Lucy non è gelato nemmeno, qua. Sono deciso che ne la tiro perché così non mi devo. Io e mia moglie a non parlare più a nessuno di questa cosa perché mi incazzo con te a giudizio. Non voglio che rivolgi più la parola a questa gente. No, anche quella di fronte, quando noi stavamo piazzando l'antenna, la pensa uguale. Quella è una che istiga. È quello proprio di fronte a me, in quel palazzo lì. È un ragazzo da niente, mica, ha detto cazzo, qui la rubavo, in chi va di tu, ma non rubate i cazzo di dici, ti buoni in mano, e se mi buoni in mano vi dimo a vivi. Venga pure voi sei, in greppa veniti però, dimmi. Oh, yeah, yeah. È un problema, io non capisco che fastidio di dire un'antenna. Non fate, ti sentono tutti i giorni a tutti. C'è Alberto, non ti sente pazienza. Noi ti sentiamo, Natali, non è un problema, è anche bene. È un peccato usarla così, però io te l'ho detto, secondo me cosa bisogna fare. Faccia lì ti dati fastidio, mi tu hai l'antenna. Cosa avremo? Ne la faremo, ne faremo l'uguro. Le aggiungo altri due tubi, ti lascio all'impicco. E poi per che cosa? Continua il tuo tran tran. Ah, vieni. Hai ragione tu. Si toglie, basta, appunto, basta. Si conserva. E ciccia, cosa ne viva? Qua mi hanno scoglionato in una maniera che tu non ti puoi immaginare qua. Non so. Allora, da fastidio, capito? Il problema che disturbi è quello lì, chissà come fa da poi la volta ogni disturbo che c'è, perché anche l'altro giorno avevo disturbi a Rai 1, non te meraviglio con nessuno, io non ho disturbo a televisione, altri baracchini qua in zona non ce n'è, continuo a prendo, può capitare ci sia un disturbo atmosferico, però sicuramente deve avere l'antenna, si abbia in un tempo, capito? Allora dici un gatto che ce l'ho sul palo suo, l'antenna mia della televisione. La mia non ha disturbo, lui mi disturbo computer, ghigio, mouse, mi disturbo. Io non sono un professionista in computer, non me ne intendo. Ma se parli con un professionista, quella è una scusa bella e buona, capito? Perché cazzo un mouse. Tu puoi disturbare le colonnine del computer, puoi sentire la voce, ma non che tu debba disturbare il computer. È una cosa assurda quella. Io non ci credo veramente. Anche la voce dice che sente, il parlato dice che sente, ma adesso. Il parlato nelle casse del computer. Può essere, ma non dentro il computer, no. No, lo so, non li intendi. Ma ne rompi due balle qua. Lo so, una cosa brutta, ti vuoi è una cosa brutta, una cosa brutta, perché ti crea problemi, con andare il tempo ti crea problemi, ti fai nemici, capito? Lì tua moglie abita da una vita e quindi è un casino, non lo so, Natali. Prendi tu una decisione, quando la prendi fai un fischio, capito? E si butta giù l'antenna, cosa vuoi dire? Ti dovrà pulire l'antenna per tu casa, così non avrai nessuno, senza antenne vola, bim bum bam, PMR, tetta crack, tu pesci. Ti metti l'antenna dentro casa, all'angolo, lì, della finestra, dentro però all'interno, vediamo di fare un lavoro fatto a regola d'arte, un'antenna che funzioni. Anche internamente e parli solo con noi, cosa vuoi ti dire? Usci non è più usi, l'antenna non venne, io l'antenna non l'aggio nulla, si è riponito a casa tua e a controllare. E qua, puoi ponere fuoco la casa, Guido. Adesso mi sono ti stai zitto tu con quei due bippi, però che i due bippi non escono più perché salgo un fucile e ti sparo l'antenna. Hai capito, bello bene? O parli con muro? Sei sicuro? A conca muro di bonghiani. A me sembra così, ciao, buonasera, però è un problema. È un problema perché non sai più come comportarti, capito? Alla fine uno dice, ma me lo vado a me a compromettermi con questa gente, ne tolgo tutto e basta. È così, non c'è niente da fare. E così siamo vinti a quelli. Magari è solo per antipatia, non per altro. Perché mi sembra strano che lui di subito può entrare solo nelle casse del computer. Basta che si compri le casse filtrate e i baracchi non entrano, il discorso è quello. Quindi l'unica cosa sarebbe andare a casa sua e vedere se è vero. Con due portate di PMR, ci va a tagliare insieme a quello là e ci accendeva il computer. Per dire, la moglie parla da casa sua e te la accorge subito se deve essere, se quello dice male oppure no. Tutto lì. Secondo me la scusa è quella comunque. Capito? Anche per me è una scusa. Nelle casse, ti ripeto, può anche succedere. Basta che avete le casse non omologate. Può succedere. Si gassi i cinesi, si bagliate di frente. Questo è l'impianto audio della Lenovo, quindi del computer stesso, e quando ci ho acceso il computer io non sento né le casse né niente, quindi voi avvisate il mouse, disturba il mouse, così riblocca il mouse, quando va a vedere l'antenna riblocca il mouse, che non si è mai visto. Dice, quando io parlo lui non può lavorare, è perché deve mandare i pezzi a queste televisioni, perché lui è giornalista, capito? Ho capito, ma se è giornalista, mi sembra un giornalista un po' ignorante, perché è assurdo che tu lo blocchi il mouse, perlomeno, ripeto, ribadisco, io non sono un professionista col computer, però mi sembra una cosa un po' esagerata, forse esagerata meglio. Dice un'antipatia dove comanda il più forte, mi sembra, non lo so, Natali. Io lascio a te le tue decisioni, sono solidale con te, quando tu decidi fai un fischio, si viene, si sfida e si butta giù l'antenna, si bicia tutto, arrivederci e buon viaggio. Altro non ti posso dire, Natali, perché non voglio che poi vai a metterti nei casini, va a Palo Baracchino, assolutamente. Però le parole di Antonello sono sacre, la dai vita a loro, la devi spuntare, in una maniera o nell'altra, la devi spuntare. Uno, perché non ti sei agganciato da nessuna parte, l'antenna è nella tua facciata, proprio nella tua facciata. Ok, ora, non so se la legge ti permette di poter mettere un'antenna fuori in facciata, non lo so. Questo bisogna che ti informi bene prima di fare il casino, però l'antenna è nella tua facciata, quindi siete nella tua casa doia, non sei andato a rompere i catti a nessuno, se così fosse la ragione dalla tua parte, se così non fosse, Natali, che in facciata non si può mettere niente, con l'antenna bisogna togliere. Mi stanno rompendo le scatole, poi non lo puoi usare il baracchino, non avevi con il tesoro attendi lui. A prescindere da quello, dobbiamo fare le gare con nessuno, ti ho detto qua arrivi 9 più 10 così come sei. Ok, da 9.10 a 9.30 non cambia niente, l'importante è che ti sentono tutti entro Sassari, se non ti sentono dalle altre parti non ti interessa, ok, non ti interessa, l'importante è che ti sentiamo noi per fare due chiacchiere e per ammazzare un po' il tempo, punto e basta. Però ti ripeto, informati, se quell'antenna in facciata può rimanere, siccome la facciata è la tua, di tua proprietà, allora va bene. Se in caso contrario non fosse così, quell'antenna bisogna toglierla. E da che cazzo mi informo? Natali, non lo so, Antonello, tu hai qualche idea da chi si può informare? Ah, io penso, comunque l'antenna già la può lasciare in facciata, perché non deturpa nulla, quindi capito, non è per dire in corso Vico che l'ha piazzata lì, capito, non puoi installare manco la parabola, anche in corso Vito Emanuele, infatti se è notato non c'è manco una mia facciata, manco la parabola, cioè, sono tutte sopportezze, capito, perché comunque lì dove lui è una via chiusa, quindi c'è poco da andare a... Non fatto più niente, capito? Non dà nessun problema. Quindi lascia stare lì dove è, fai l'antenna e basta. Parla con quello là e dici, mi faccia vedere il problema che sto creando io. Nulla, ci parli e poi si vedrà. Se per caso entri nelle... in queste colonnine qui, ce ne sono colonnine in giro, non è che non ce ne siano filtrate. Se prende un paio, dice, gliele sto regalando io. Basta che non me lo fa le balle, dice, tutto lì. Se poi il mouse, quello lì, quello che c'ha wifi, o con Bluetooth che funziona, quello che vuoi, usa quello con cavetto, è molto meglio. Non ci vuole molto, no? No, li preoccupo più computer oltre al coso, al mouse, non può fare un cazzo. Ma tu visto lei che bloccando il computer, io penso di no. Con lui fai le prove, non costa nulla, ti prendo due portate che ho io, PMR e fai la prova. Vai a casa sua e mi accende il computer e io faccio parlare mia moglie a casa mia. Hai capito? Fai così, se è vero che qualche cosa inventeremo per quell'antenna limite, l'abbia 27 L, la stacchi e ti metti un'antenna, un bazooka, qualcosa del genere, tanto c'è lo stesso lì. E non dà nessun problema. Anzi, bazooka lo puoi anche addirittura sollevare ancora di più. Aggiungi altri 2-3 metri di palo e ti metti la bazooka come antenna. Ecco. Via. Sì, non si vede, adesso tiro il cambio. Non lo so, guarda. Non guardi la gente così, la puntiglia ti smonta e basta. Non lo so, davanti non si vede. Buonasera, buonasera a tutti. Ho sentito a te, Pompone, poi non so chi c'è ancora. Cantalino c'è. Cantalino, la famiglia aumenta. C'è un altro vicino, quello di su, insomma, sta rompendo le palle, lo buga tutto. Io non so se tu sei esperto in computer, ma è mai possibile che quando lui parla le blocca il computer e le blocca il mouse? Io penso che si senta la sua voce nelle casse e può essere una cosa normale, ma a te ti risulta che lui può bloccare il computer e addirittura il mouse non cammina più? La televisione, dici, riposto di qua e annaffa, è pure l'antenna mia, cazzo, è... è un'altra roba rusuglio addirittura. Solo che la sua condominiale ha detto il padrone non vuole toccarla assolutamente. Ehi, lasciamo stare. No, allora il computer intanto viaggia in frequenze diverse dalla radio. Il mouse lo può bloccare perché o usa mouse a Bluetooth o Wi-Fi, quello sì. L'unica cosa che può sentire è la sua voce al computer, quello lo può ascoltare, sì. Però che glielo bloccano. La televisione, quello è... gliela può bloccare tranquillamente. Non lo so. Io a Natali avrei un'idea, secondo me. Allora, nel senso, visto l'antenna dove va a finire, no? In quel terrazzo, quel radiale, no? Va a finire dentro quel terrazzo lì. Ma tu il padrone di quella casa lo conosci? Non conosce nessuno io, in occhi, no? In che terrazzo andrà a finire? L'antenna, da lì, dove finisce l'antenna, il radiale, va a finire vicino a un terrazzo, giusto? Come così, cazzo, sbagliato. E non è quello che abita questo giornalista che le disturba il computer. Ma perché questo giornalista cosa abita? All'ultimo piano lì dove finisce l'antenna? E certo che sì, è certo, però c'è l'ingresso da Corso Trinità. Ecco. E beh, da questo qui non si può salire. E l'antenna al posto di farla partire da giù si infilano altri due pali e si mette su, perché da lì si riesce ad arrivare sul tetto, capito? Solo da lui. Non va toccando nulla, non va a poni nulla. La cosa è allungare quella, però il problema, Massimiliano, che stavo dicendo poc'anzi a Natalino, è di informarsi se l'antenna in facciata, su quel tubo che noi abbiamo messo in facciata, perché l'antenna è già su, ok, il tubo in facciata si può mettere, capite? Al caso contrario bisogna toglierlo. La facciata è la sua, però io non so come sono le leggi, le regole, non ho mai avuto questi problemi, capite? Perché se fosse così, te li informati, fai la foto di come è messa l'antenna, non ce l'hai un amico avvocato, una consulente le stai chiedendo, un'informazione le stai chiedendo, non penso che ti biglia di là, per un'informazione, no? Tu... ascolta, Ocla. Allora, la facciata è la sua, ma secondo me per legge non la può mettere proprio in una facciata, perché è un centro storico quello, capito? Sì, Massimiliano, però è un centro storico ma vicolo chiuso, capito? Non penso, però pensandoci bene, penso che abbia ragione tu, perché? Perché? Perché le parabole in facciata non si possono mettere, nei poggioli in facciata, però attenzione, all'interno di un condominio come ci abbiamo noi, no? Per farti capire, se io me la metto nella mia finestra, nessuno mi dice niente perché è privato. Lato strada, tu la parabola non la puoi mettere, ok? Questo l'ho già sentito e a qualcuno l'hanno fatto anche togliere. Come lato strada, non puoi mettere il motore del condizionatore in facciata, se invece è all'interno, per capirci come sono io, allora è privato e va bene, ma lato strada non si può mettere. Infatti così. Ascolta Natalì, ma io ti faccio una domanda, no? L'antenna tua TV, come fai tu se ti si rompe l'antenna, come fai a cambiarla? Cioè da dove accedi al tetto? Lo dico a quello lì perché è sopra il palo di quello lì che disturba la mia antenna TV. Ecco, tu lo devi chiedere a quello lì per accedere a mettere l'antenna, giusto? O a sistemare? Non me ne fa mettere, lo so già, poi lui non è il padrone, lui è un inquilino. Il padrone non vuole toccare l'antenna condominiale, a chi ho aggiunto mi riserà, se ti dice buona televisione, riserà amplificatori e fosciumari. E vuoi fare io a controllare il virus? Non ha voluto assolutamente, perché il padrone non vuole a toccarla assolutamente. E allora tu fai una cosa, Natalia, fatti due foto, vai al comune, dice, ascolti, io ho montato questo tipo di antenna, con tanto di tassa pagata e palle fai. Posso lasciarla, posso metterla, cioè non posso metterla, l'hai messa, quindi posso lasciarla, sono in regola o non sono in regola? Sì, Natali, fai così, ti fai la foto di come abbiamo messo il tubo, ok? Vai al comando dei vigili urbani. Mi ti posso dare la mano anche io, ok, o ti faccio parlare direttamente con l'Otto Serra, con Gianni, ma poi tu già conosci gente che ha lavorato in comune, quindi già ti sei muovo, e chiedi questa informazione, come ti ha detto lui, ok, fai la foto e dici io in questo vicolo qui ho montato l'antenna del baracchino, senza nascondere niente, perché è un'antenna di baracchino, quello. Questa è la mia licenza, questa è la mia concessione, siccome la facciata è di mia proprietà, ok, posso lasciarla o devo toglierla? Perché in questo vicolo mi stanno tutti dicendo cosa, capito? Se il comando dei vigili urbani, che sono loro che comandano il territorio, noi i carabinieri, se il comando dei vigili urbani ti dice non ci sono problemi, la può lasciare, la facciata è la sua, l'importante è che non rechi danno agli altri, danno tu non stai recando a nessuno, allora iniziamo a fare un'altra guerra. No, lì lo so cosa deve fare il vigili urbani, Natalì. Per fare uno scritto da loro, capito? Per fare uno scritto da loro. Bisogna vedere se te lo fanno lo scritto, cazzo. Sì. Devo vedere che ne fa. Conosci pure che vengono anche a fare un sopralluogo. Natalì, se è idoneo che la legge dice che tu la puoi installarlo, visto che il vicolo chiuso non vecchi danno nessuno, loro ti danno anche l'autorizzazione. Io la chiedo, ma potete lasciarmi un foglio, un'autorizzazione dove, oppure venite a fare un sopralluogo così vi vedono, perché io mi sta creando problemi questa situazione. Provo a muoverti in questa maniera, Natalì. Ok, fai la foto, già c'hai un bel telefono, fai la foto proprio dal tubo, quindi bene il tubo e un po' l'antenna, ok, e ti muovi in questa maniera. Se la legge è a favore tuo che l'antenna la puoi montare lì, il tubo può rimanere, allora futti di nere balle, ma futti di nì. No, perché tu devi dire anche che vorresti salire a sistemare l'antenna TV e non ti possono, cioè non ti fanno salire, capito? C'è un inquilino che non ti fa salire e tu volevi salire per vedere se era tutto a posto. Male male andando, poi ci sono lì alle porte centrali, su al comunicazione, sali anche lì e glielo chiedi. Anche lì ti possono dare delle informazioni. Spara, Natalì, spara! E ieri, caro, certo. Cioè, teme a parlare lui, capito? Perché secondo chi suona poi a casa sua e parla male, cioè succede casino, lui, capito? Devo lasciare a tutti. Ma li stanno rompendo ancora le scatole, Claudio? Alla grande, ma le stanno rompendo, alla grande. Ieri per poco arriviamo alle mani con quello di fronte. Pasco, ma è una radio omologata, è provato. Oh, ya! Se ti sapete che ciò che scende con un watt, Massimiliano, un watt, per non disturbarlo. Perché come alzo poco a poco lo disturbo. Quindi con la radio omologata con 5 watt lo disturbo. No, non è così, non va a non è così. Quella radio con un watt non sta sparando un watt. In antenna, quindi c'hai un watt di portante bianca, ma non c'hai un watt modulato, quindi guarda radio c'ha anche spurie e altre cosettine, già lo sai, no? Quindi devi provare anche con una radio omologata a 5 watt che non ha spurie, capito? Sì, Natalì, su questo non ci piove, qua sei 9,5 con picchia 9,15, quindi non mi dici se la radio si scende con un watt è importante, ma al minimo lui si rende di 10, 15 di EP, io non ne ho altri, io ce l'ho la 48 e basta, però Marco, vedi un po' se riesci a fare qualcosa, prestale una che esca con 5 watt, con 4 watt, pulita, nuova, senza essere toccata, e così fa la prova, io non ne ho, se no gliel'avrei data. Ma Natalino, tu non avevi quella radio piccolina da 5 watt? Cioè cosa ce l'hai? Macchina fissa? Non ne ho più in macchina, ce l'ho qua, se voi siete a vostri figli. Ehi, no Claudio, per dire, lui ce l'ha una... Ce l'ha una radiolina lì piccolina, 5 watt o 4 watt, 40 canali. Il problema è che anche se lui esce tutto perfetto, se quelli hanno problemi in antenna lo sentiranno sempre, capito? A un certo punto lo può dire, signori, io sono in regola perfettamente, andate in pace, controllatevi le antenne. Cosa gli puoi dire? Io sono in regola. Ciao, arrivederci. Non è così, Marco. Ma se uno si mette l'omologato, proprio omologato, 4 watt, di più cosa può fare? Non è che può fare salti mortali. Perché sono sicuro anche dipende dagli altri. Se lui mette l'omologato, io di omologati cosa c'ho da mettere? Proprio omologatissimo, ne ho uno ma non vale lo schiaffo, mi di baracchino è una cosa indegna anche. Io posso prestare, ma non credo che cambia molto me. Ma cosa? Mi questa è quella da 5 watt. Quasi 9, per farti capire, quasi 9. E con l'altro è di 9 a picchi di 9,10. Quello che ti voglio dire, Natalì, tu stai scendo con 5 watt e boom, però non c'ha picchi di modulazione valuta. Quello lì, anche se tu abbassi con un watt, c'ha una picchi di 20 watt con la radio, quindi tu da casa mia con un watt con quella radio fai 9,10. Con questa fai 9, boom, non c'ha picchi di modulazione, capito cosa ti voglio dire? E non c'ha spurie questa, l'altra c'ha anche delle spurie, sono quelle che hanno fatto le antenne, capito? Questa che sto parlando adesso, 5 watt, a chi tu distribuivi un mattè? Figurati. E infatti il problema non è il tuo, è il loro. Già lo so, questa è 5 watt. Adesso provo a parlare con quella, a vedere se tanto quello mi dice subito cosa, questo è una lista. Non ce l'hai il telefono di questo? No, domani quando lo vedo. Qualcosa, adesso sto parlando sempre con questa ragazza, è stata di lui, che va, però mamma, Claudio mi dice che mi sentiva su di radio. No, tu devi mangiarti il microfono, non esci basso, non devi tenere un microfono lontano, no, non stai modulando col megaforce. tieniti il microfono attaccato alla bocca, esci benissimo, hai lo stesso problema che ho io col microfono normale del DAC, uguale, preciso identico. Se non lo tengo attaccato alla bocca non esci dal radio, perché qua sei 9 più 10 fisso, senza picchi, senza niente. Prima mi facevi da 9,5 a 9 più 15, quindi ha ragione Massimiliano, è impossibile che disturbi così. Ah beh, speriamo di non disturbare, io già sono omologato. Se tu ti avvicini bene la bocca al microfono, la chiacchierata te la fai uguale, Natalia. Se non arrivi al nero, pazienza, però qua a Sassari tranquillamente, cioè perlomeno qua si nota a casa mia, che siamo abbastanza lontani. Quindi gli altri ce li hai tutti più vicini addirittura. Però almeno c'è la radio omologata, capito che non sta mandando spurie. E quella là è diversa la radio, Natalia. Io ti comprendo a te, a te ti piace. Gita, che gita pompa, c'è cioè una bella modulazione, però se ti vuoi fare la chiacchierata devi usare questa, quella lì la devi parcheggiare. Natalia, ha ragione Massimiliano, perché lo stesso problema ho avuto io sono dall'83 qua, non ho mai disturbato la mia televisione, ok? Beh, Massimiliano mi ha prestato una radio a provarla, ok? Una radio di quelle sue abbastanza toste, l'ho usata per qualche giorno e ne ha trovato uno qua giù e mi ha detto, ma come mai stai disturbando? L'ha mai disturbato? Ma io? Sì, sì, mi stai disturbando alla grande, mi ha detto anche. Non ti ho detto niente, ci siamo visti, te lo sto dicendo, ma molto amichevolmente. Ok, e non solo disturbavo anche la mia televisione. E allora Massimiliano ha detto, Massimiliano, che non è tempo a pagare Radio 2 perché sto disintegrando il condominio. E ce l'ho tolta. Perché? Perché è simile a quella che ti usavo tu, capito? E io adesso sto usando l'omologato, quell'altra è spenta. Cosa vuoi dire? La tua bellezza. Stavi usando a casa, te la pone in macchina, lascia, te la vendi, 100 euro, 150 euro, ti prendi un bel, come si dice, un bel omologato, che ci sono anche comande laterali e tutte cose. E te lo prendi omologato, ce ne sono mio radio che escono bene omologato. Come questo? Questo Marco no, un campanaro di radio omologate, ma tutte veramente Marco, veramente, te l'ho già detto, escono benissimo, benissimo. Questa che stai usando, che usi normalmente, è perfetta, bellissima modulazione, chiara, forte, e così, sta lì. Il sistema è quello, non c'è niente da fare, no, non fa una piega, ha ragione Massimiliano. Massimiliano, quando hai 5 minuti chiamami che ti devo dire una cosa, ti devo mandare un messaggio, ma se hai possibilità di chiamarmi, chiamami. Aspetta che ti chiamo. Oppure Natali, c'è anche un bel 8001 che è omologato. C'hai tutte le bande, c'ha tutti i canali. E mi sembra che faccia 2630 o 2530. 8001 è una bella radio, c'è una bella modulazione e omologato. Però chi sta tanto curta. Natali, vorrò dire che te le vendi due di quelle di radio. Quei soldi che ti recuperi mi pare costa 260 euro l'uovo. E te le vendi quei due mega forze, te le vendi tutte e due e ti prendi una radio come si deve. Quella che stai usando adesso te la metterai in macchina e l'8001 te lo lascia a casa. Ma tu, ma i problemi hai avuto Marco con quella mega forze? Beh, sì, forse qualcosa. Io lo so che è una radio che butta spurie. Il problema è che io ho messo il super omologato, quello piccolino, che usci un pazzo di radio, cupo, e in più gli ho messo l'omologato con un watt più il filtro anti-PVI, quello buono, quello mi sentiva lo stesso, perciò io ti ho detto che a me sembrava uno scherzo, magari fatto da questi nulla facens del bar, capito? Non era umanamente possibile disturbare con un watt e il filtro anti-sway e l'omologato che poi esce basso di radio, quello è una cosa allucinante. Te l'ho detto, magari mi stavano ascoltando con un portatile, con un baracchino, appena entravo si divertivano a chiamare a casa, capito? E vabbè, poi comunque tutto, non ho più saputo niente, tutto è sfumato, quindi vuol dire che è stato risolto qualcosa, oppure era uno scherzo, come ti ho detto io. Oh, Massimiliano, questo anche il trimmer della M è chiuso, mi. Non è aperto. Nell'altro col display blu è aperto ed esce molto più forte. Poi io gli ho messo un microfono normale, il DMC 507 Lafayette, che esce più aperto di radio, perché anziché le due spugnette gli ho messo un feltrino, il feltrino sottile che si trovava in altri microfoni, capito? Ecco perché esce un po' più forte nonostante sia chiuso il trimmer. Siamo al telefono, un attimino, torniamo subito. Eia, comunque Natali, cosa hanno detto? Roba del palo. L'altra volta quell'antenino me l'hanno girato, me l'hanno capovolto. La PLC 800 c'avevo nella finestra, perché c'era una fetta lì, gli ho detto cosa, gatto, perché ero sbagliato. Fin domani c'era l'antenna testa in giù. Il padrone mi ha detto anche scusa, però intanto detto che si prende i laghi. E adesso da consiglio il rumore che fanno. Quindi devono stare anche zitti, che loro alzano la musica e disturbano te. Allora, no, io ti sto chiedendo il palo dell'antenna, hanno detto nulla? No, dici, cazzo, si passa da più bassa, veniva più tirata l'antenna. Cosa pensa l'antenna, va? Con un casino che la prende dietro, con un microfono, nei rubacconi e con la colonia. Facendo casino. Cosa dite, proprio sul bar dove ero io che mi ha abbandonato Marco. Ha detto bene Antonè, ricordati che nei quartieri popolari si fanno sempre casino, ti pilano voci, vogliono arrivare alle mani, capito? Già qui, certo, non è un quartiere residenziale, ma quando sei nei quartieri popolari, lì tipo Sassari Vecchio, non so, insomma, già hai capito, i quartieri popolari, è gente che è così. Anche a Pomponio, infatti, gli dicevano roba, ciura, ciura. Cos'è che ti dicevano a te, Antonè? No, a me perché altro mi dicevano cosa... perché avevo messo l'antenna bassa, con la pipetta, no? E quindi quando passavano quei ragazzini con la pizza, il motorino, li sentivi, cazzo, c'è un palo, sta attento, e sentivo, ding, hai capito? Allora, mi hanno mandato il vicino urbano, la mattina dice, questa terra qui non va bene, mi ha detto, quella, e tu guarda, detto, l'ho pensato, detto, perché, detto, vedo la TV, allora, gli ho detto, adesso faccio una cosa, ho detto, prendo il palo, ho detto, compro il palo, ho detto, la metto più su, dice, faccia così che non ci sono problemi. Ho preso e ho tolto la pipetta e ho cacciato direttamente il palo alla finestra, ho messo 3-4 metri di palo, ci ho messo un matto addirittura. No, non mi hanno mai detto niente, non mi hanno più detto niente, non mi ha che disturbato la televisione, figurati tu. Però quando c'avevo la pipetta a spina di pesce che arrivava giusto a toccare la testa a qualcuno, già era pericoloso, sono passati i vigili, mi hanno detto cose. Poi quando ho fatto quel lavoro lì sono passato, dice così va bene, mi ha detto, cioè, può stare tranquillo, però non mi hanno mai rotto le balle, a me comunque il palo in faccia gliela si può mettere, perlomeno, io ho pensato ieri, lo sai, della via dove, della testa della camera da letto era via Paolo Secchi, già lo sa Natalino dove e quanto è larga, giusto ci avevo messo 4 radiali di Mantova, perché gli altri 4 non ci stavano. Quindi l'antenna io la posso lasciare qua, perché anche lì ce l'aveva all'atto l'antenna, l'aveva nella facciata, giusto? Sì, l'altra non ti possono fare niente, con quel palo non ti possono dire niente, capito? Devi stare tranquillo, l'unica cosa è fare come ti ho detto io, andare lì da lui con un portatile giù, un portatile sopra e fare la prova e poi vedere tu. Vabbè, se è vero questa questione del computer, perché se non dovesse essere vero, dovesse essere balle, basta che dici, ascolta, dimmi tu qual è il problema, ti sono antipatico, ti hanno rotto le balle, quello che, però non inventarmi pensieri del genere, capito? Tutto lì, bisogna che fai, come ti dico io, è l'unica cosa, se no bisogna che... che sali sopra il tetto e ce l'ho creduto, quello non farlo salire nessuno, mi ha detto, quindi il discorso è quello lì. No, in pratica non ti posso neanche dire niente, perché quel lavoro che è stato fatto in quel tetto lì dove è piazzato l'antenna tu è abusivo, hai capito? Quindi ecco perché non ti fanno salire, quella è roba abusiva. Sì, già lo so che è abusivo quello del primordiale. Adesso ho messo l'omologato e mi devo usare una colonnina esterna perché c'è una ricezione di cacca. Io già ce l'ho, dovevo parlare di esterni, vieni te li prendi. Comunque lì va bene anche un 3009 se te lo buschi, che sono omologati qui, lì c'è lo stato un canale, volendo c'è un affare dentro, se vuoi lasciare normale ti da solo 40 canali, se invece vuoi portare la 281 ci metti questo ponticello e ti dà 281 canali ed è 5 watt d'uscita, senza toccare niente e meno in nulla, ed è omologato, c'era uguale Marco, è uguale ce l'ho anch'io, cioè uguale, vabbè, il mio è il modello vecchio, però è 3009 e funzionano benissimo, non danno né spugne né nulla, grazie a Dio. Perché l'altro disturba troppo, disturba con un vatto, un cazzo, salgo di picchiare in picchi. E vabbè, un vatto di portante bianca, quando muro il sale già lo sai, c'è l'omega force, come quello che avevo io, simile là, come c'avevo simile io, che mettevo la potenza a zero e poi mi dava i picchi positivi, quasi 20 watt mi tirava fuori. Già lo so, già lo so. E adesso sto usando l'omologato, figlio. Figlio il cannone. Anche il cannone. Solo che c'ha una come si dice, una ricezione del cazzo, bisogna punire una resistenza, bisogna, cioè una colonnina esterna per sentirsi un po' più bene. Sì, ce l'ho una colonnina esterna, due piccoline, amico, collegate assieme. Te l'ho detto, quando vuoi vieni te li prendi. Vanno bene per i barattini, vanno di lusso. Avanti che hai detto, beh, lì piglia un cannone che è sparito. E beh Marco, quasi combinati di bello. Niente, oggi sono a casa. Sono mezzo raffreddato anche, boh, c'ho il naso gonfio, non riesco a respirare, c'ho le mucose gonfie. Non ne ho voglia di uscire. Mamma è uscita con gli amici suoi anziani a farci un bel pranzo fuori, c'era porcetto, cosa non c'era, un po' di roba c'era. E quindi almeno lei si è distratta e sono contento, dai. Dovrei mangiare. Casomai già qui torna, adesso Claudio tornerà dal telefono, anche Massimiliano, dai, vi trattenete con loro. Entro più tardi, dai. Qui sto prendendo freddo perché sono con le ciabatte, con i piedi scalzi. Mi devo mettere le pantofole che tengono freddo perché mi sto pigliando mezzo raffreddore per quello, capito? Prima ero in maglietta, in casa, c'era una corrente. E adesso credo che mi viene un malanno così. Ok, dai, ci sentiamo dopo, dai. Vi ascolto comunque. E io, ciao Marco, ci sentiamo dopo. Alle prossime. Natali, comunque tu in PMR non disturbi, giusto? A quanto mi ricordo io, quindi l'antenna dovete avere, ce la so, però. No, non disturbo col PMR, no. Oh, Popo. Dimmi. È imminente una svittatura di antenna. Ne avevo già fatta una, fra poco faccio l'altra e così facciamo ciucciù. E io non c'è problema. Adesso mi sto aspettando, hanno già dato la prima tranche, non so se Natalino non l'abbia già ritirata dal comune. E adesso penso che sia il 15 o il 20, una cosa del genere, c'è la seconda tranche. E quindi compriamo quella gigio, così me l'ho piazzata a casa. gli mettiamo il tono e così ci divertiamo. Però usiamo una cosa o usiamo l'altra, amico. Cioè, se metti il ripetitore su antenna poi non puoi parlare, però. Vabbè, dai, ne riparliamo, dai, fatemi mangiare, sennò poi si fa tardi, eccetera. A dopo, ciao. Sì, per quello non ho ancora per parlare, basta che parlo dalla strada. Ho il bisogno di quei portatili, ci sono della Blondi, piccolini. Parlo con quello e se ne sa come si chiama, non è un problema, per quello lì. Sempre come se fosse parlato da casa, già ecco. Avanti, Natali. Afferma. Via, fai pure, fai pure. E beh, vado via io e non parlate più. Io si è spostato un attimo, si è spostato. E tu devi dire. Sei mangiato adesso in pratica, Marco? Sì, oggi sì, sto mangiato adesso. Ma una cosa veloce, niente di impegnativo. Cava, cava. Io arrivato adesso. Scendo a fargli la pizza a Giampiero e così poi lui è a posto, poi devo preparare la cena qua io con la friggitrice di quella del Lido, ci metto la fettina dentro, vediamo se funziona bene. Io ho fatto le patatine e sembrano buone, la verità. La bocca mi è venuta questa scossa di cagaglia, le patate mi fanno così a me, sempre che le mangio mi viene la scossa di cagaglia subito, che... Natalino arriva 9:25 con l'omologato, quindi in città non c'è né problema, in città non c'è né tanto, guarda, siamo sempre e solo sul 10 in AM, quindi basta anche l'omologato. Io se avessi un omologato che riceve bene, perché gli omologati hanno un altoparlante brutto, no, c'ha ragione Natalino. C'ho quello con l'altoparlante frontale, ma riceve tutto CCC un po', c'ha un altoparlante piccolo 3 cm. Invece questo sì, riceve un po' curto, ma almeno c'ha altoparlante da 10 cm, bello, bello. E avanti chi? Buonasera a tutti, Lupio Rum. Ciao Gianni, ben sentito. Vabbè, le monografiche se vogliamo già vanno bene lo stesso, Marco, mi sono gli apparecchi lo stesso che vanno. Di certo un FM500S che per carità o il Midland, mamma mia. Meglio non piazzarli in casa di quelli, se c'hai 5-6 persone vicino a te sei morto. Ci vuole un apparecchio, un 2009 va bene, che filtrato, un bello monografico che sia filtrato. Sono inutile piazzarne. Avanti Gianni. Allora, ti voglio fare i complimenti perché stai arrivando benissimo, sei arrivato a vedere il segnale, veramente bella la radio, finalmente ti sento come voglio io. Sì, sto usando il 2009, la buon'anima del 2009 con il microfono Salerno, sempre quello. Vabbè, poi c'è anche l'altro apparecchio, l'altro è il microfono normale. Capito? Questo va benissimo, veramente bene. CM40 Special. Io sto usando il Master Plus, ma come va? Bene, bene, c'è una bella radio anche la tua, riesci benissimo. Ma io sono riuscito bene con questa alerta, anche col coso, col Kingwood, quando utilizzavo questa alerta, quello rosso, che non mi ricordo qual è, forse non è Master Plus, non mi ricordo adesso. Comunque, sempre uscito bene io con i microfoni saletta sempre. Invece con l'MC60 non ci riesco, non c'è nulla da fare, faccio schifo di modulazione. Poi anche il microfono tipo Tanner, cosa del genere, anzi, se ti ricordi il ZG non andava bene alla mia modulazione. Capito? Quindi l'unico è saletta. Questo va molto bene, guarda, ti sta ascoltando, è perfetta la radio. Avanti Marco, buonasera. Ehi, ciao Gian, io sono mezzo raffreddato perché sto troppo scoperto in casa e c'è corrente e stavo mangiando qualcosa, adesso mangio la frutta e fra poco entro. Guarda che c'è anche Claudio che è al telefono, Massimiliano, Natalino dovrebbe ritornare che si è spostato un attimo. Ok, e c'è un bel gruppetto, dai. C'ho le mucose del naso gonfie, mi metto la rinazina, sì, me le sblocca per un'oretta, poi di nuovo punto a capo. E non se ne può usare nemmeno troppa, perché sennò dice tende con gli anni a fare venire i polipi alle mucose nasali, se già non ce li ho, eh. E vabbè, ti rifai in salata poi. Deia. Sono con i sandali aperti, mi c'è un freddo ai piedi, mi devo mettere le pantofole assolutamente, sennò davvero mi viene un malanno. Io a casa, cioè io voglio stare a casa quando sto bene, ma stare forzosamente o forzatamente a casa per, sai, raffreddori eccetera, non mi piace. E allora esci. Ma no, io c'ho un progetto sino adesso, quindi poi sono andati via. Adesso sono libero, è acceso 5 minuti. Allora, adesso devo guardare se c'è qualche cosa a Sassa in giro per andarmene a ascoltare musica, se c'è qualche cosa, perché ho voglia di evadere. Musica non lo so, magari qualche circolo. Circolo, qualche bar che c'hai, come c'è il karaoke, dice che c'è uno a Pedaniera di fronte a Napoletano, che è cinese, lì c'è lì fanno musica con karaoke, addirittura c'è il bar e poi Magnaburo. Sì, sì, lo conosco, sì. Ma c'è sono diversi, no, sto dicendo, sto parlando di musica tipo in piazza, così, non lo vuole chiedermi locale. In piazza, so che c'era Porto Leali in questi giorni. Ah, boh, e che ci è uscito in piazza? Io so che mi sono in galera, no? Oia, oramai, dalla mattina alla sera io mi accendo appena c'è un minuto di tempo per dire, beh, oggi non sono uscito in nessun posto. L'altro giorno, vado dopo le 8:30, oppure vado prima per dire vado alle 6:30, poi alle 8 ritorno a casa. Un'oretta vado a prendere una birra, adesso compro da Nico con gli amici, ci passa anche Giuseppe. Tanto per passare un'oretta, se no sono sempre in galera, o giù o quassù, il discorso è quello. Stasera non sono uscito, non avevo voglia, certo che tocca. Insomma, prima c'è andato male tuo fratello, ma tuo fratello non cammina niente? No, non cammina, è allettato, e quindi devo cambiare il letto, devo cambiare il lenzuolo, devo lavarlo, mettergli il pannolone, si deve fare il cocò, hai capito? Poi, vabbè, c'ha il catetere per l'urina, quindi deve anche svuotare quello, eccetera, eccetera. Fare un sacco di casotali e pastiglie. Sembra le varie. Quindi prima babbo, dopo babbo, mia madre, dopo mia madre, adesso mio fratello, quindi i tre erano Maria. Maria, tu già sei sacrificata e non c'è soluzione, no? No, non si può riprendere per niente, no. Oramai. Ma l'unica cosa che ho fatto è la domanda di ritorno a casa, si chiama. Adesso devo consegnare questo foglio qui a Pedanietta, a questa cooperativa, quindi mi mandano una persona, dalle 10 alla 1 ce l'hanno già lui, così la mattina sono libero. Se mi capita di trovare qualche lavoro, almeno la mattina posso lavorare. Vabbè, anche tu hai bisogno di lavorare, non è che... Non pago io, no, paga il comune, 1300,90 centesimi, capito? Prende di stipendio di mese, ce l'hanno tutto loro, solo devo farmi la busta a pagare io, consegnarla e andare da un consulente, poi consegnarla lì al centro sociale che c'è di Rockefeller e loro mi restituiscono sull'indietro, cioè in pratica io anticipo e loro poi mi restituiscono. Accidenti, se il magariente direttamente ci sono stati problemi, no? Sono aiuta la prassi. È tutto un casino. benzino, in pratica non è una prassi, quindi ho preferito, ho detto, meglio la coplattima che ci mangia tutto quanto loro, gli ho detto, a me non me ne frega, non voglio sapere niente, gli ho detto, mandatemi una persona, gli ho detto che sia tranquilla, e basta, non gli ho detto altro, ho detto che si arrangiano loro e basta. Uiuia, avanti Marco. Ehi, dai che sto masticando. Natalino è rientrato? Già, sono qui. Ehi, Gianni. Lo stanno oscillando Natalino, Stanno scocciando forte. Chi lo sta scocciando? Quello vicino di casa? Quello di fronte, diglielo Natalino. Sì, già abbiamo perso. Lui è... Lì, sì, Radio 1, alza un po' la voce. E cazzo, mi devo buonare, che via, ti metterà un po' tutto, se no mi sentite, da. Ma non usciva bene quel baracchinetto, non usciva bene. Ma io me lo ricordavo più forte, va bene. Così esce, è un omologato, riceve di merda e trasmette di merda. Figuriamo. Che microfono stai usando, quello normale? Abbiamo fatto in tre. Ma microfono normale stai usando, Natali? E cosa vuoi che usi? Hai tutto, se tu trasmetti tutto normale. Io lo capisco. Ma sai cos'è? Voi siete amplificati, lui è normale, se regola il volume per voi, lui risulta basso, sempre la solita storia. Dovete uscire tutti col microfono normale, ci dobbiamo equiparare tutti. Noi diciamo come ci piace a lui, ma se devi dire tu come dobbiamo uscire noi. Sì, vi dovete uniformare. Invece fai una cosa, quando parla Natalino alzi il volume, uniformandovi che vecchia nella Brescia. Ma poi devo stare alza bassa. Bene, cioè non bene, male. Purtroppo, come ho detto prima, lì già, purtroppo è quartiere popolare, quindi lì subito, capito, vogliono arrivare alle mani i vicini. Purtroppo è così. Sono tutti affarratori, capito? Sì, la tavola è accesa a cavare che ha caricato tu, però futti. Si debbono le mani ma già si difende. E se non passano le mani già ci sono le macchine termobalistiche, vero è? Marco. Oi. Ma se sei un amico tu adesso, ti siedi in macchina, ne hai uno dentro la scatola, il baracchino buono. Dai, glielo porti. Scusami, che amico sei? Quale sarebbe il baracchino buono? Uno dei tanti che hai, uno nuovo dentro la scatola, usa questo che non hai problemi, punto e basta, né di radio e né di ricevitore, niente. Perché se lui attacca l'Omega Force, anche se lo mette a 1 watt, faccia Natalino con l'Omega Force a 1 watt, 9,5 a 9,15, a venne potenza PEP. Ci vuole un baracchino serio che dia 4 watt e non si sposti da 4 watt, nuovo, pulito, ordinato. Allora, l'unico omologato, quello piccolino, esce come esce Natalino. Tutti gli altri hanno il trimmer aperto, persino quello lato plantare c'ha il trimmer a manetta e quindi uscirebbe anche troppo forte, con rischio di splatterare. E poi sono mezzo incicciato adesso, non lo senti che sono mezzo raffreddato? Non posso uscire adesso, anche per freddo. Sono stato con i piedi scalzi, con la maglietta, e mi sta prendendo il naso e la gola. Cura, Rito. Vai da Gianni che ti fa dei due massaggi, vai. Vieni che ti metto un X Vaporub. Sono due parlando al PMR, vorrà devi parlare più forte. Adesso entro io, Deborah. No. Vabbè, un po' di, forse anche la sera che eravamo, ci siamo trattenuti fuori, c'era un po' di freddo, Va bene, cioè non va bene, va male. Grazie poco di caldo, siamo stati tutti fuori, a me non ci ha fatto nulla, sono andati a pittigarlo. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Gia, buonasera. Ma lui sai, non c'ha anticorpi. Ho sentito anche Valerione, Valerio. Non ci ho pensato Claudio, stamattina a dirtelo che è Natalino. C'è la benedizione degli animali. E dove? A San Francesco. C'era anche una bella manifestazione a Codrongiano, se lo sai, solo stavo lavorando, io se non saremmo andati, certo avrei chiamato. C'era una bella manifestazione di cani a Codrongiano. E poi giocava la Torres. Non mi ricordo con chi, nel campo della leader Pedro Jones. C'era una bella gara di cani, molto bella, la fanno ogni anno. Dei pastori tedeschi? Sì, pastori tedeschi c'erano, soprattutto, ma anche altri cani, un po' le razze, anche altre razze. Ma giusto così, saremmo andati a portare i cani, capito? Faccio un giro. E il Tesla si stava attaccando lo sciampi americano, che sta durando giù qualche tempo per partirare. Ah, ha fatto le trappe. Attenti, io Filippo mi rompo le scarpe, non lo posso più mollare perché è diventato un bel più cattivo di prima. Prima era molto più bravo, adesso qualsiasi cosa vede non sopporta più niente. Oppure il male già mi dispiace poco. E vabbè, ciao Valerio, via avanti. Beh, una cosa del genere mi... Perché ero solo in maglietta, mezzo scalzo, più che altro in casa a me, questi spifferi. Qualcuno vuole le finestre aperte qua, perché è claustrofobica e mi devo pigliare la corrente io. Ah, che distanza, la ruba ancora. Non ti sento Natalie, qua tutti super amplificati e a te non ti sento di radio. Vabbè, rimarrò in ascolto, va, parlate tu già, ma io non parlo. Mettiamo un attimo il volume, Omar, io lo sento benissimo Natalino, non ne ho problemi. Bello quel cane, oggi, che cane hai detto? Sharpei americano. Bello, bello, è già giusto che è già con anche i dritti. Casino, pure i maschi, mamma mia. Non usa tiriosi che rottura di balle. Vabbè, pazienza. Lo sento bene a Natalino, No, non ne ho problemi. Allora, aspetta qua, un secondo, Ecco qua. Che avevo toccato poco fa, sto facendo una prova, adesso ho messo 10 watt, 15, già va bene. 4 watt devi usare, 4. 4 anni stai correndo tu da Viale Trieste a Viale Trento. 4 watt, devi usare l'omologato, devi usare anche tu, come Natalino. Io ce l'ho già omologato. Sono già omologato io. Io se siete con la 48 ho già 8 watt. Il braccio ne ha 12. Cosa devo fare? Questo sotto i 10 watt non va. Non lo posso mettere perché lavora male, capite? Ho messo a 10 watt, 15 modulati. È più che sufficiente, non c'è problema. No, sa cos'è? Io non è che posso alzare troppo il volume, se non fa bulotto qua. Ma non parlate voi, se mi regolo anche per Natalino fa bulotto. E qua sono nel salone, rimbomba un bel. Ciao Deborah, ciao. Claudio. Claudio, questa qui è la benedizione. Ecco per me un secondo, si cavolo. Lascia la birra. No, sto fanno un giovanno, aspetta. Ehi, un bacione dalle. Eia, tu c'è un vino, più zante. E dov'era già questa benedizione? L'ho trovato. La chiesa di San Francesco ce l'ha presente, ciao Massimiliano. La chiesa di San Francesco ce l'ha presente, di fronte c'è uno spiazzo, l'hanno fatta lì. C'era il parco, c'era il parco con tutte le sedie, potevi anche sedere, c'era la gente con i cani. Ma questo stamattina? Sì, sì, stamattina. righe. Io riprendi, riprendi Marco, fai girare. Ehi, dai, sono a corto di parole. Riprendete voi, dai. Ma Natalino, ho sparito. Natali, mi chiedi i soggiamenti. Ehi, devo essere di cosa. No, si sarà buriato perché con quello esce basso. Se attacca l'Omega, disturba. È un po' così, in ponte. Ma già va bene, anche quello omologato, si avvicina più la bocca al microfono, già va bene, momentaneamente. Basta urlare, eh? Così rubiamo anche. Tipo Poletto, ti crepo. Gappa, gappa. Va bene, avanti, dubbio. Ehi, un attimo che si scrive un messaggino, riprendete voi. Ehi, scrivi un messaggino, vai, che bello. Non lo vedo, non c'è nessa roba, sono nell'altra brandina lì, l'altro coso lì, che me l'aveva detto. E fatto qui a bene, chiedo a 7 mesi puntuale a portarlo, capito? Sì, io, cappa cappa. Va bene, va bene. Scioccato giù questa cosa di Natalino, allucinante, non riesco a capire che uno si possa accanire per che cosa poi, per niente, non lo gioco. Se prendi Natalino io ti sento, lascia il cantare a Mario, a Marco. Ma anche io lo sento bene, boh. Sì, non è la radio dell'Omega però, è proprio lo stesso. Ma perché non ce l'aveva? Non ce l'avevi Natalino un microfono di tavola per col baracchino, no? La connessione diversa c'è. Boh, Natalino te l'ha fatto tutto. Marco, grazie, boh. Già che dovrai fare girare di più, non lo senti. Mamma mia, che allora, va bene, poi non lo so. Ehi, va a andare dove devi andare, informarsi bene, e poi si può muovere, capito, quando c'hai le cose in chiaro, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, puoi mettere, togliere, disfare, capito? Allora va bene. Ma Natalino non gliel'ha spiegato? Può dire solo, io ho la licenza, sono in regola, ho l'apparecchio omologato. Se avete problemi, chiamate l'escopost, vi pagate l'intervento, se a pagamento, che non se lo pagheranno mai, e controllerà la mia stazione con l'omologato e le loro antenne, a vedere qual è il problema. Siccome se a pagamento non lo chiamano, continuano a rognare. Tenitilo il disturbo allora. Marco, hai gente che non ragiona, cavolo. Quella lì è gente che dice prima di avere il baracchino tu non avevo disturbo, adesso ce li ho. Così ragiona. Io faccio l'azione di bianco e è arrivata mia moglie, d'accordo? Lo so, poi lì già lo sa come sono, no? Questo è il popolare, quindi sono tutti della serie uomini duri, no? Che spesso arrivano alle mani, quello è il modo di ragionare che hanno lì. Vabbè che Natalino certo non rimane a pigliare colpi, no, se succede, poi te l'ho detto, male andando, se non ce la fa con le mani e viene aggredito, già ci sono le macchine termobalistiche, o no Claudio? Sì, ma lui non vuole arrivare a questo, capito? Ho capito, cioè poter stare tranquillo, lui deve, cioè, vuole risolvere il problema amichevolmente. Uno, se questa gente amichevolmente non ci si comporta, alla fine ti butta la disciplinazione e se ti dà un casino, tutto lì, capito mi hai? Via. Oh già, cosa sono le macchine termobalistiche? Sì, c'erano le armi forse. Sì, esatto, era una definizione antica. Boh, una sciabitura, macchine termobalistiche. Ma addirittura c'era una marca, ma.te.ba, che produceva armi schifezze però, cioè pistole con forme assurde, roba che nessuno avrebbe comprato. In Italia ci sono la Tanfoglio, la Beretta, tante altre, capito? Altro è che Mateba, che faceva una pistola, avrà prodotto se non una pistola in 100 anni, capito? Ah, Beretta sta sempre... me ne stavo guardando oggi su YouTube. Adesso fanno queste nano pistole, tipo la... la Beretta Tomcat. È una 765 piccolina, pari un pacchetto di sigarette. E poi adesso le fanno mettere in polimeri per farle più leggere. Fanno il castello in polimeri, poi polimeri... plastiche speciali, no? Poi vabbè, la canna è d'acciaio e forse anche il carrello è d'acciaio. L'otturatore, no? Il carrello otturatore. Sono belline veramente, ecco. E c'è la Bruni anche che fa delle belle pistole. Guarda, quando stavi parlando sento questo rumore strano. Lo guardo così e poi è scomparso. Adesso non so se fosse qualche... che avessi io, boh, ma non penso perché che mi è silenziosissimo, non si sente manco un problema questo barattino, boh. No, è lui, anche poco fa c'erano delle scariche. E il PL, aspetta che, lo sai che col calore si molla? L'ho notato, col calore si molla, vedete un po' se lo fa adesso? L'ho stretto bene, eh? One, two, three, ditemi se ci sono, aspetta, tocco lo spinato del microfono. Niente, l'ha fatto? No, adesso no. Ma l'ha fatto anche per un bel po', poco fa poi si è ritornato bello limpido. Lo so. Sono rotto le rimbalze e ho provato anch'io queste cose, per carità. No, mi hanno fatto anche gli articoli sul giornale, di tutti di più, volantini sotto il portone, poi cercando... cercando tutti i fortuni che se non avete tutto il giorno ritirato giù. Oh Claudio, Claudius, oh già, sai perché stavo pensando che fosse uno scherzo, quella registrazione che ti avevo fatto sentire, no? Quello del baracchino, dice, spegni tutto, no? Perché poi che mi ricordo dalle parti del Barnizza uno sconosciuto aveva detto mentre passavo abbiamo fatto la segnalazione, io poi vabbè ho tirato dritto, c'avevo da fare, so c'è da dire, chi cazzo sei tu prima di tutto, poi la segnalazione di cosa, se sono in regola, cazzo diavolo, quindi per quello ho pensato fosse uno scherzo anche Natalia, oh, va Gianni. Ecco, come facevano a sapere il tuo numero di telefono? E vabbè, qua bene o male ci si conosce tutti. Beh, il cognome lo sapranno, no? Chi più o meno, insomma, ci bazzica gente che abita qui anche lì. Basta guardare una guida, noi siamo in elenco, siamo in elenco. Hanno chiamato il telefono di casa, naturalmente, non il cellulare. Capito? Vabbè, poi non più niente però, più niente. Ma intanto sì, questo giabidone di qua, vediamo la TV, allora mettete a posto l'antenna, devi vedere in che condizioni sono certe antenne, una coricata, una, quando mai, salgono una volta ogni 30 anni sul terrazzo, a vedere se le antenne poi si lamentano, vedono male la TV. E poi io a casa non disturbo, io ho l'antenna TV sul palo dell'antenna del baracchino, sopra c'è l'antenna, mezzo metro più sotto c'è l'antenna TV e non disturbo, quindi non me li devono girare, capito? Se non passa giù al balcone il fire, dai, tornano a portare il cane, sentiamo dopo. Eia, buona passeggiata. Allora, sposteranno l'orario, l'ora legale o solare, adesso non me lo ricordo, scatterà il 29, l'ultima domenica di ottobre, tra sabato 28 e domenica 29. Dalle 3 dovremmo mettere le 2. E quindi farà un bel buio prima, perché ancora siamo all'8, adesso piano piano diventerà, farà buio sempre più presto, tipo anche alle 6 o alle 6 e mezza, adesso non... E poi un'ora indietro, quindi farà buio alle 5 e mezza. E vabbè, tutti gli anni è così, dai, ci dobbiamo fare l'abitudine. Chi vuole uscire a vedersi Platamona deve andare il pomeriggio. Ma io chi c'è rimasto? Pompone, Natalino, chi c'è rimasto qua? Valerio soprattutto. Ciao Marco, buonasera. Oh, Gianni Capridue, ben entrato, ben sentito. Compagnia di Gianni Doppirum, gli altri sono tutti spariti. Sì, sono andato per salutarmi, ma c'ero a cielo, sto facendo call, hai capito? E sto sistemando un po'. Ogni alternata. Ma non va bene? Hai un'alternata evidente sotto. Un'alternata abbastanza evidente, vero Gianni? Da. Doppio room non c'è più, siamo soli. Ok, ma il segnale però com'è buono è? Oltre 9.15, 9.15 pieno, ottimo il segnale. Vediamo se c'è Valerio Dalghero, se ti sente. Valerio? Guarda se senti Gianni da... non mi ricordo il paese, già, ripetimelo. Gianni Capridue, Cutia Camuroso, Valerio mi ascolti di Dalghero? Già, non si è capito niente. A momenti c'è, spariva la voce, c'era una forte alternata, molto forte, ed eri tutta scarica. Ehi, Massimiliano, è entrato Gianni Capridue, ma sta uscendo male. Tutta scarica, alternate. Oh, non lo so, Gianni, mi ascolti. Capridue? No, speriamo di no. Appena rimesso tutto, forse sta toccando il microfono. Insomma, doppio uno risponde, tutti spariti, avvamennando. Vabbè. Eccoci qua. No, c'è qualche cosa sul mic, la batteria forse. Ok, uscendo su adesso. Leia, lo senti, Massimiliano? Sì, sì, io lo sento, non so se mi ascolta lui. Ciao Gianni, mi ascolti? Sì, buonasera Massimiliano, sì, ti ascolto, non mi ero sentato un attimo per tirare il microfono manuale, ok, già sto uscendo. Comunque saluto anche Valerio di nuovo di Alghero e mi ha detto Santiago 8, così vale. Ok, perfetto, no, non c'era più la scarica, siccome erano fermi gli apparati, non è che sto sempre qui e niente. Avevo fatto... perché sto facendo ancora, sono entrato per salutarvi e riprendi l'arco, poi non riprendo perché sto finendo qui di mettere a posto mobili e cose varie. Riprendi l'arco, ti rilascio e poi rimango i tuoi ricchi. Eia, vabbè, sistema tutto, dai. Fai scaldare bene la roba quando devi entrare, così almeno si riprendono. Eia, non una semilia, io quasi quasi chiudo, tanto sono tutti spariti. Sono più Roma, Antonello, vabbè, Claudio è andato a portare il cane, eccetera. Mi attacco alla TV, è inutile stare a parlare e nessuno risponde, dai. Eia, come vuoi, dai. Ciao Gianni, ti saluto, buona serata. Valerio, mi ascolti, buonasera. Lo so, sono passo io. Ti volevo dire, devi abbassare un pochettino di microfono alla radio, perché sei tutto tutto così, di rotore. E ha detto che dovresti abbassare un po' il mic gain di quella radio, perché sei tutto un po' così, me. Il mic gain. Non c'è più. Va bene, va. Quella sarà quella la modificata, ma per me deve abbassare ancora un po'. Cosa dici tu, Marco? Io grosso modo l'ascoltavo anche prima. Sì, una radio tutta elaborata, là. È fatta da... dove era fatta quella radio, Valerio? Dimmi solo la città. Quella è fatta a San Giorgio Ionico. Ehi, sono tutti gli elaboratori, molti a Sud Italia, Sicilia, capito? I noghi non vennero, no, qua non fanno nulla, qua fanno... cosa fanno qua? Non sanno neanche elaborare gli apparati qua, boh, almeno credo, tu niente ne sai, Massimiliano. In Sardegna ce n'è chi li fa. Sì, ce n'è uno, bravino pure. questa è la zona di Coso, di Iglesias, capito? Però adesso non so se stia facendo ancora qualcosa. Io ce l'ho una da fatto da lui, così ho lavorato a Coso. No, già le fa bene, ma adesso non so se le sta facendo ancora, non lo so. E già ce n'è anche in Nord Italia. Ce n'è a Napoli che lavorano bene, ce n'è a Milano, già ce ne sono preparatori che fanno le Ferrari. Eia, molti lo fanno anche in privato, no? Invece c'è un sito che lo fa, adesso non mi ricordo il nome del sito, ti fa tutte le elaborazioni che vuoi, dalle lucine a doppi modulatori, ecco Colt, Bip Colt, e come si chiama il sito? Non me lo ricordo, guarda. Oh, c'era uno che si chiama Delta One. Sì, Delta One Shop, sì, quello lì. Quello lì. Tutto quello che vuoi ti fa. Anche baracchini di cacca, tipo l'FM500S, 548SX, come quello che io, li ho visti trasformare in mostri, Guarda che l'Intec, il 500, il 548, sono come 48 metri, potete pensare che sono diversi. Oh, il 548SX, come il Colt, il 48, sì, allora è una cagata di serie. Guarda, io ce l'ho, l'avevo anche comprato all'epoca, nel lontano fine anni 80, inizi 90, avevo comprato il kit dato dalla Intec che te lo fa 120 cavalli, proprio con la sua, il suo kit, il coperchio era già predisposto col forellino per la manopolina e fa 40 normali, 40 sopra e 40 sotto. Ma l'ho sempre considerato caccami quell'apparato, ce l'ho tuttora e funzionami. Lo so, ce l'ho avuto anche io, il pomellino ce l'avevo proprio sopra, non aveva proprio il pomello col coperchietto fatto apposta per il pulsantino per fare 120, ce l'ho avuto anche io quello, ma l'ho venduto. Poi ne ho un altro, adesso mi ricordo se è 48 o 500, 34 canali omologato. E visto che c'è quello, se capita ci vediamo, ti regalo un frontalino di quelli adesivi là. Sì, non ne uso Massimiliano, anzi se posso questo 548 me lo faccio fuori, non è roba che uso, dai, io ormai come omologato ho questo, non vorrei paragonare, anzi sta, dico ma accendi e pare una friggitrice, anche macchina, sembra una friggitrice, sembra, questo è molto più discreto, più silenzioso in macchina, anzi ti dirò, il 3009 in macchina è il più silenzioso di tutti, anche di quelli, l'HR5005, anche quelli pigliano più QRM, tipo l'omologato, hanno un QRM di fondo maggiore, questo è il più silenzioso invece, perciò io sia in mare, in macchina che a casa preferisco questo, non c'è paragone. E allora mandami un messaggio quando lo vedi, che c'è uno che mi sa che lo sta cercando, ti mando un messaggino e dici quando lo vedi. Guarda, dovrei sapere le valutazioni, perché non so quanto può valere, ma poco penso, poi è funzionante, l'FM vabbè non l'ho provato, in AM funziona, forse gli avevo aperto anche il trimmer della M. Non so, bisogna sapere la valutazione, c'ha la staffa originale, il microfono originale, capito? C'ha pure la staffa, per dire che tutti te la danno senza staffa la roba adesso. Oh, chiede in giro, se interessa qualcuno da farcela elaborare, si può vedere. Oddio, la scatola ce l'avrei, ma è tutta ingiallita, è un'orribile scatola bianca e rossa, me credo di ricordare, però non c'è il polistirolo dentro, tutte le cose, capito? Però il baracchino almeno, il microfono suo c'è, la staffa sua c'è, capito? Sì, dimmi una cosa, la carcassa che colore è dietro, dorata o come, o tipo colore argento? Ah, il telaio? Guarda, se aspetti un attimo te lo dico. Io fammelo, dimmelo, mandami anche due foto e così lo facciamo vedere. Non è che abbia questo grandissimo valore, ti dico già che ci sono 48 a 7 100 euro, 110, 120, ma comunque se ne trovano anche per 70 euro. Più o meno la cifra è quella. Guarda, è dorata. E sembra una doratura tipo zinc, come in tipo zincatura dorata. Con riflessi un po' verdolini, sai, hai presente? Sì, sì, sì, sì. Quello è Coro 48. È Coro 48 quello lì. Se lo senti elaborato, quello lì ci fa bene. Esce come quello di Valerio. Guarda, su internet ho visto qualcosa, su YouTube. Li fanno diventare dei mostri. Adesso aspetta, mannaggia, un po' impolverato, però grosso modo qualche foto te la posso mandare, dai. Fuori è grigio, sì, qualche graffettino, qualche. Però niente di irreparabile, mi. Sì, a trovarne anzi così. Dai, fammi pigliare il cellulare. Poi le foto, da spento, se vuoi te la accendo pure, mi. Se riesci, mandamene uno acceso, così quando uno la vede la foto è meglio acceso, la vede la spenta, capisci? A me 120, quella roba lì funziona tutto. Sì, sì, sì, canale 18, 18, c'è anche la serigrafia che dava la Intec, c'è 40, più 40 e meno 40. Sì, sì, sì, sì, va benissimo, Giulio. E ti ripeto, non c'hanno molto valore, capito, Marco? Ripeto, un 48 così, originale, con staffa e cose, lo trovi anche per 80-100 euro. Sì, ma io anche 50 euro, io non sono così, non sono le chissà ziccate che vendono a prezzo pieno, vediamo, 50-60 euro, così in prezzo di realizzo. Ecco, sto pulendolo un po', c'era un po' di polvere perché c'era quella macchina una volta e non l'ho pulito, adesso lo accendo e faccio un paio di foto, dai. Allora, in questo momento ho un microfono Alan F10 dell'anno 3, però è senza batteria, mannaggia, l'ho messa negli altri microfoni, ne ho messo nel MBV5, ZG da Palmo e il DM1000, certo avrei fatto, comunque è brutto questo amplificato, cioè rende male, non rende tanto, e vabbè dai. Certo, poi chi se l'elabora mette un modulatore diverso, lo fa diventare un mostro, in effetti. Ma io già lo sai come la penso, Massimiliano. Io anziché, per esempio, anziché spendere 500 euro per un 48 che ha solo la M, ho preferito pigliare un Omega Force che usciva discretamente la M e c'aveva bande laterali, più potenza, capito? Era completo, dai, non era solo un baracchino M. E purtroppo, vabbè, chi guida il camion c'ha questa fissa del 48. Non vedo altro che 48, ovviamente modificato, e Turbo 2001. Da lì non escono. Non sanno che valida c'è anche la Sirio Performer 5000. È un mostro, mi ha detto che, mi aveva detto Massimiliano, Luigi Vulcano, che addirittura di un paio di DB, proprio un paio di DB, 2-3 DB batteva la Turbo 2001, è lo stesso un'antenna che è un mostro da 2 metri, è una bella bestia, è bella anche d'aspetto, molto rifinita, mentre la Turbo 2001 era un'antenna più greggia, più grossolana, l'altra molto più elegante d'aspetto. Lo so, io ce l'ho. Ce l'hai, beato te. Vabbè, macchina mia però, troppo longa, poi bisognerebbe bucare. Io ho quella base magnetica, pertanto la levo ogni volta, se no te la smontano e te la fregano pure. Ok, beh, gira, vabbè, rimango qua, dai. Comunque l'accendo, tanto per fare, avrei preferito farle con la macchina fotografica vera, le foto, perché col cellulare vengono mosse, vengono un po' così. Vabbè, già mi aggiusto io, dai, Massimiliano, poi te la mando. Vediamo se è entrato Claudio, se è entrato Gianni, Valerio c'è già. Sì, c'è rimasto. Tutti a dito in culo sono mi. Scusando il termine. Ho un capo di ritrucco, io ti ho detto che non a portare il cane e sono rientrato adesso, voi c'è chi fai? No, se sei rientrato sono contento. No, sono spariti tutti, Gianni è sparito nel mentre Trattarino è sparito, tutti spariti, dai. È entrato KP2, mi ha fatto una prova, ma sta sistemando il microfono, Cap. Qual è il microfono? Non l'MC60, aspetta. Che aveva le batterie. È entrato, ma stavo uscendo con una forza alternata, scarica, poi spariva la radio, poi c'era un'alternata forza, mi ha detto che sta sistemando tutto, forse rientra, dai. Ah, l'MC50 quello che ha comprato sta sistemando, sì, sì. Ma lì batteria non ce ne vanno, l'ho detto, quello è senza amplificazione, il microfono. Ma la partita, devo usare l'MC60, ma cosa di Nafuti, Capri, Capri. Ha detto che stava togliendo le batterie dal 60, e sicuramente ha alternato da quello. E che altro può c'è batteria 60, Edu? C'è un'altra radio, sto provando un'altra radio, se avete capito. C'era il microfono a tavolo con la batteria scarica, comunque buonasera Clark. No, sto mettendo un qualcosa qui che c'era un, come si chiama? Un macello che stavo sistemando l'armadio con così nuovo che ho messo un crack dopo tanti anni e non è che no, ho provato questo ormai che c'era la batteria scarica perché era tanti anni adesso che non lo stavo più usando. No, no, no, col console crack, il console c'ho adesso. Il console 2, quello che ho trovato io. E il console, il baracchino dell'SPA. Sì, ma quello che ho trovato io. Sì, a come va? Va bene, come segnale, come radio. Sì, perfetto. 920, sì, radio 5 per me. Non c'è problema. No, siccome stavamo parlando di MC60, non è a batteria MC60. Mi sembra strano che non stiamo mettendo le batterie nell'MC50. Capito. No, no, stiamo andando bene, Capri. Avanti, Massimiliano. Sì, sì, anche io lo sento bene. Qua mi arriva Santiago Lonfe, Piero Piero. Ok, Massimiliano, sì. Sono i due tecnici che sto facendo roba sul mobile. No, perché l'ho acceso, perché è un peccato. Almeno questo ho toccato, me lo porto. Ma gli altri sono conservati. Sì, l'avevo sistemato, le MC50, tutti cambiati i pochettoni. So quanto grida. Infatti sono, perché, niente, è un momento che... Sto finendo l'armadio che dopo tanti anni si era anche schiodato dentro, da prima gli ho fatto fare tutte le mensoline nuove per dentro e quindi sto finendo, sto aiutando a mettere diciamo abiti della roba. Ok, vi sto ascoltando, dai ragazzi, buon proseguimento e riprendi qua. Gappa, gappa, c'è 28 quando sta arrivando forte. Va bene, va bene, alla buona sistemata, dai. Ok, è Natalino Marco, l'hai detto che non lo intendi, boh, invece di risolvere il problema, cazzo, lo diamo anche sopra, sapete com'è Natalino, cioè si adira per queste cose, bisogna risolvere il problema, no? Perché non stai uscendo, qui, là, è chiaro che ha serrato tutto e se n'è andato. Ma se non lo sento cosa gli dico? Sì, ti sento benissimo, vabbè. E cosa si risolvono? Comunque bisogna far capire, signori, se hanno problemi, chiamino chi di dovere e controllerà anche la loro antenna, a vedere che schifezze c'hanno di antenne. Di queste antenne TV ci sono a 40 anni pure magari. Sì, non lo so, non lo so, io ti posso solo dire che non mi vorrei nei panni Natalino perché fare il carattere che io forse avrei fatto già danno. Tranquillo che avrei fatto già danno, capito? Senza pistola e senza armi, avrei già fatto danno. Quindi non mi voglio in quella situazione e niente. Però mi dispiace tantissimo perché Natalino ci teneva a rientrare, abbiamo fatto di tutto per poter montare l'antenna e questi pellegrini lo stanno costringendo a ritogliere tutto. Non sono cose belle. Ciao Capri, buon Querix allora, salutami a casa. Avanti Massimiliano. Positivo, voilà. Ciao Capri, se mi ascolti ancora ti saluto con una buona serata. E buon Querix, dai. Va bene, va bene, va bene. Ok, dai, poi me le mandi quelle foto come si è a posto. Dai, ti attaccano, che lo ascolto. Il... quello là, quello di quella persona. No, no, a coso, a Marco, che c'ha questo paracchinetto, non c'è tutto il canale, omologato, non volevo sentire. Leia, ma attimino che purtroppo, allora si accende il display ma si è fulminata la lampadina dello smitter. Per essere a furia metterlo, toglierlo, adesso lo sto attaccando, sto mettendo la, la pila all'F10 un attimino. Va bene. Riprendi Claudia. Grazie, mi sto togliendo i pantaloni. Non so cosa faccio col cane, mi stavo spogliando quello, il pigiamino. Mamma, non sto riposando niente, che a tuo lavoro devi andare domani, Massimi. Cos'è l'esame di sabato? Sabato? Gappa. Telefono portato di mano, ce l'hai, se sono andato a fondo. Sì, adesso la guardo. Guarda, cambio, passo basso. Gappa. C'era Valerio, ma a me non mi ascolta. Massimiliano, mi serve un articolato pieno di lettame. Eccomi. Allora, questo è l'Alan F10 che purtroppo non esce bene. Ho messo una batteria, ho messo il mic a manetta, RFG a manetta, e sto operando da un 10-15 cm di distanza. Com'è? Rimane un po'. Sì, tutto a posto. Vediamo. Qua niente, ecco, vuoto, fin là. È sparita la modulazione, però. Oh! Prova, mi senti? Non lo so, sto toccando qualcosa qua. Tanto poi bisogna mettergli un microfono adatto poi alla, come si dice, alla Raffa Napoli, all'elaborazione, no? Sì, ma un microfono normale, devo andare, Lo devo cercare. Se, mamma mia, speriamo di trovarlo subito. Ce l'avevo comunque. Perché col mic normale uscirà ancora più cupo, è ovvio, Ma magari esce meglio di quello prefiggato, capito? Claudio, ti siamo andati a noi. Sì, come radio un po' cupo, come mi piace. Ehi, continuate tra di voi, che vado a cercare il mic originale, dai. Provalo col mic originale. Andando, c'è qui sempre a scendere, non vedo. Ecco qua, 20 watt, 10-15 watt. Provalo col mic originale, pensavo volevi sentire quello là, Massimiliano, capito? Girare Inter, che però è una saponettina, mi. Come si chiama? DMC 500. Va, Claudio, vedi tu? Sì, ma se non li usi questi microfoni, stanno tutti andando a casino, se tu te cari, mi schiaccia bene, per essere sporco il bigliettino, lo so. Non lo so, io lo sto tenendo fermo, guarda, tocco il cavo, non lo so. E vabbè, fermo da secoli il microfono, io il microfono non l'ho più usato. Vedi un po' come va. Vediamo se il microfono è stretto bene. Ma quante volte dà quella radio? Perché 9.30, sì, ma è possibile. Sì, anche leggermente saturo. Qua è 9.10 a picchi di 20. Allucinate, ho 4 watt di F10 all'impicco sul vicino, come 30 qua. Avrà 3-4 watt, in teoria 4, ma secondo me ne dà 3. Ma perché basso sono? Ma ragazzi, una bella modulazione con la radio. Come? Ma ce l'ha? Si può fare migliore, no? Ma si potrebbe aggiustare appena appena, là. Solo poi se trovi un GTE, uno Midland, un Lafayette, che è un sacrificato per un clientino, va bene, per i miei parametri sicuramente è brutta. Non ti credere, ci assomiglia a molto al 3009. Allora è una cacca al 3009. No, non è dove è una cacca al 3009, è dove ci assomiglia. Sì, mannaggia, funzionava la... Niente, sto toccando, ma non... deve essere che si è fulminata la lampadina tra un trasporto e l'altro. Peccato però, mannaggia, vabbè che poi chi se le revisiona si cambia tutto. Sì, sarebbe una lampadina per mettere un led lì e vedere non si fulmina più. Sì, comunque sale, quando parlate sale, quindi a segnare segna, anche se qua dopo il 9, vabbè, lo spazietto è talmente ristretto che, vabbè. Comunque dai, cerco di fare qualche foto, ripigliate voi, io faccio qualche foto, dai, casualmente le mando in seguito, mi assimiliamo, perché le vorrei fare con la macchina fotografica vera e propria, che è sempre migliore del cellulare, che non ha zoom, non ha niente. Posso rispondere, però fai un passaggio da FM che ti posso ascoltare. Sì. Vedi, uno dei tre prime, uno dei tre prime, uno dei tre prime, uno dei tre prime, uno dei tre prime, uno dei tre prime, uno dei tre prime, prova il 45, anzi passa al 60, visto che siamo sul 10. No, sul cos'è? 50? Sì, sul 50, vai su. Magari bisogna allinearlo appena appena, un ritocchino allinearlo bene, dai. Ascolta che è stato fermo per 15 anni, Allucinante. Cioè, io dopo 15 anni gli ho messo a mano e funzionano ancora, dai. Eia, vai, torniamo al 10, dai. Più forte la radio sul 50. Eia, eia, c'era un po' di propagazione. Un secondo che mi ascolto un messaggio. Eia. Così era più forte Claudio, ma come mai? E cosa può influire? Non lo so, era molto più chiara e molto più forte sui canali alti. Qua invece va bene, però è leggermente più satura, più compressa, capito? Eia. E se vado sotto più bassa sarà. Tu riesci a beccarmi 10 canali sotto? Dovrebbe essere 955 o giù di lì, proviamo. Aspetta, tu li vuoi fare una prova. Allora vado 26955 dintorni, comunque 10 sotto, dai. Anche sul 30 sotto funziona, è migliore di qua comunque. Eia, meglio così, dai. Io riprendete tra voi che faccio questa benedetta foto, dai. Sì, KK, sì, ci provo, ma ci vediamo, sarà molto difficile. Vabbè, quella radio scende, era 26.625 addirittura, minchia. La radio di Marco, ha detto cercami, l'ho cercata ed era 26.625, 30 canali sotto. Ma scende ancora di più perché lui era mentolta. No, io ero sul 10, cioè se metto il canale 1 e la banda di sotto sono molto sotto, tipo 26, non mi ricordo i canali, dovrebbe essere 26 e non me lo ricordo, dai. Comunque 40 sono sotto, capito? Cioè, per mettere l'1 sotto, 10 kHz sotto l'1, devo mettere il 40 banda bassa, ok? Invece per essere 40 canali sotto l'1, devo mettere l'1 banda bassa. Sì, 26.515 dal canale 1 sotto. Ah, sì, sì, Claudio, è vero. Volevo con Claudio, io non mi piace più io. E cosa vuoi dire con Cristo? Tanto è sempre uguale alla mia, vedaimi. Lo so, non lo so questo, non lo so. Beh, ce la misuriamo, davanti a Filippo. E allora, se la devo invitare a me questo. Allora, ma sistemate una connessione adesso, che sta arrivando l'inverno. E lì per le ore il campura che diventa più grande. Ma penso lei che adesso mi si ingheggia. Altrimenti signora Yolanda. Sì, interessante quella radiolina, Marco, è interessante. Minchia, scende un bel. Se vuoi essere domenica, domani, giù una gara, mi esaminerai di dentro, giù. Non ho la mano ferma, col coso. Con lo smart, comunque va bene, faccio varie. Il guscio di sopra, il guscio di sotto, il guscio di dietro, il guscio di destra, il guscio di sinistra. Il guscio di tua sorella. Ce l'avesse la sorella, eh? Gliel'avrei fatto io il guscio. E gliel'avrebbero fatto gli altri, non tu. Io sei maniaco. Io come sto? Ah, Massimiliano, c'era domenica, domani, non era meglio di lui. Oltre che ubriacone tragico e anche maniaco. Ah, te lo accorgi a te di Natalì? Ehi, stasera me ne sono accorto. Ok, dai. Madonna, voglia. Massimiliano, tutto il vino ce ne ha bevuto, mi immagino. Davvero? E mi la Claudio, se non mi dico. La bottiglia come se l'ha messo? Il pescio. Io questa garaffa, e tu ci ha pigliato la Coca-Cola, no? La bestia si ne ha pusciata appena, poi ho detto portaci una bella caraffetta di vino rosso, perché intanto bevevamo tutti i vini, anche Franco beve il vino, Valeria eccetera. Sto massaggiando, ma tosto, Massimiliano, vino buono, deve essere di qualche paese, di proprietà. Ho detto, fa una cosa, portaci due gazzose. Abbiamo mischiato la gazzosa per fare la domenica leva, però a me non ci ha fatto male, se no era tosto. E si mangia bene, no? Sì, un poco taccagni, un poco troppo taccagni. Lo spittidino sono più mano larga. Io direi che allo spittidino si mangia meglio, secondo me. Ma guarda che si mangia bene anche lì a 140 grammi. Sì, già ci ho mangiato a 140 grammi, si mangia benissimo, non bene. No, lo spittidino. Manca paragona con l'uccellaccio. La pizza è buona, sì, ma quella là è più buona. E poi quando ordini i calamari ti regani una porzione per 3 invece per 2, infatti si sono accorti che era poco, gli hanno portato un'altra porzione. Poi Gianni gli hanno dato la pizza con cotte e arcelle, che la salita che papa, infatti ci ha mangiato ricotti rugosi, la pizza la ragazza. Benissimo. benissimo così, non ha giù né da fare né da basciare, andava bene. Ma sai cosa devi fare Natalia? 747 ci metti lì. Questo cazzo di incendio di computer invece di la caldina. Cazzo, ma gente Natalia si dice, ma ha preso fuoco il computer, colpa sua, come te ne so me che aveva tirato il fulmine con la direttiva, il tuo vecchio ne usa, il tuo vecchio. A che tanto lo mattessi, mi chiuda oggi, mi sembra tutti, no? Dici, io non mi aiuta con i videogiochi, io lo so che ha da me. Mi avete quasi un paio d'ore da voi, sentono come mettere quello là in ricezione, ascolta altre parti, tu lo lasci ascoltare altre parti, io metto quattro usi per fare la chiacchierata. E infatti, poi non si può accusare. C'è una cosa che non si crede, ma gira gira, le abbasso il volume a zero e ascolto con l'altro, perché questo c'è una ricezione del CAI, certo. Ehi, vabbè, dai, non te ne frega, ma niente, io me ne truppa i buchi. Ehi, fa. Ehi. Però, quando si fa bene, attaccati lungo la bocca. Ce l'ho attaccato, ce l'ho. Natalì, ma non ce l'è più quello del microfono di tavola? Chissà dove ci è uscito, adesso bisogna lo cerchi quello di tavola. No, te ne metto il microfono di tavola, che va più male. Che microfono stai usando su quella radio? Uno di quei microfoni che usavano sulla LAN 48, il camion di CD, uno di quelli neri. Ah, cos'è, un CD, è un Midland, cos'è? È Midland. E invece lì potresti trovare un microfono, un telecom, una faglietta, appena che dia, non so, ce la fare una modifichina lì dentro, mi dà così appena appena più forte, capito? Ce la metto un timberino. Ecco. L'ha già visto, la capsula va, ma piglia più la voce, beh, ma se no, Il timberino gli ha tolto la mano. No, c'è, gli ho aperto quella, e dentro quella scatoletta è in plastica, no, gli ho fatto un buco più grande. Vedi, potresti provare a togliergli il filtrino davanti, con la spugnettina, come lo chiamate. Ehi, domani, bro. Come ti direbbe, ho cannito di tutto, eliminati la scatoletta che è nata lì. Perché il mio ha migliorato molto quello del DAC, il microfono normale, gli ho tolto quella spugnettina, quella lì, e poi ne ha giugato da 30 scatola la capsula, capita? Ne ha giù tagliata proprio la goccia. Gli ho messo un pezzettino di cotone per mantenerla ferma e non si muove. Se che giro butto lei, giro il microfono, fate tron tron tron, ma se ne affutti. Mi era fatto largo il buco. Ehi, vabbè, ma se l'abbia ancora, ma se vediamo a quello non si può modificare mettendo la resistenza, la fuoriuscire più forte. Via. E allora rivedo Natalia, come ti va? E quindi se lo fa, già lo sa fare lui. Qui c'è il microfono normale che è un po' più spinto, non è un normale microfono di gas borra, che miseria là, siamo per avvivare di un gas borra. Io non ne ho lo stesso, devo guardare, ne ho uno, come si dice, modificato con la vuole quel trimmerino e poi da lì puoi aumentare e abbassare la radio un po', capito? Sì, mi sono arrivato Marco, le foto. Ehi, certo, ma un bel po' di anni, no? Perché è stato portato anche alla Maddalena, ci parlava mamma la Maddalena con quel baracchino, insomma. Si vede che è un po' vissuto, dai. Comunque il funzionamento ancora funziona, quindi. Ho mandato qualche particolare, il pomello della staffa, il selettore delle bande, eccetera, no? Poi ti fai un'idea, dai. Ehi, ti ho mandato la foto. Io il KL203, RM Italy KL203, praticamente uguale a quello. Dentro me. E la stessa. Com'è che dice Claudio? La stessa gufa. Ehi, ehi. Beh, come ti sembra il baraccocco? Passabile, sì. Sì, ho voglia. Vabbè, per gli anni che c'è è trattato abbastanza bene. Allora, ho notato, ma l'ho notato già dall'altra volta, che la spia delle stazionarie non funziona. Funziona la spia TX, ma le stazionarie ha perso la sua funzionalità, capito? Di prima mi faceva vedere la modulazione quando non avevo stazionario e la peggiava per far vedere la modulazione, almeno adesso no, no, non lo fa. Stazionarie, non so se funzioni con le stazionarie, io non ne ho, non sapevo come crearle. No, non attacchi il cavo dell'antenna, è proprio schiaccia la porta, ma proprio schiaccia in moglie. Allora, tengo schiacciato finché non esce il fumo, dai. No, se vuoi fare così attacca anche il lineare. Dai signori, io vi lascio momentaneamente, no, non momentaneamente, anzi vi lascio per stasera, dai. Ciao Natalino, ciao Marco e ciao Claudio. Buonasera, ti faccio sapere Marco, dai. Ti faccio sapere, ok, così lo propongo, lo faccio vedere, tanto per lasciarlo buttare dentro l'armadio è preferibile farlo fuori. Eia. Allora, ho staccato solo la calza dell'antenna e già si è acceso e come? Peccato che non fa più da spia di modulazione, ogni tanto lo facevano, cioè almeno 15 anni fa, 20 anni fa forse lo faceva, oppure mi sto confondendo con l'FM500S, comunque stazionario siede e come? Naturalmente devono essere un po' alte, no? Se no, no, non è segna. Va bene, ciao Massimiliano, buona serata. Mi dà crepo che si è fulminata la lampadina, funzionava fino all'ultima volta, e vabbè. Ciao Massimiliano, ci aggiorniamo, dai. Ho detto qualche messaggio, sto facendo aspetta. Allora Marco, mi hai messo gli occhiali. Sei più forte della radio che usi normalmente, 9.30 con picchi a 35. Quanti watt va la radio? Guarda. Potrebbe essere 5 watt e il 3009 ne ha 4. Questo forse era omologato a 5 watt. Aspetta che mannaggia, non ho la devo illuminare. Aspetta, guardo che ho fatto la foto alla targhetta. No, ne ha di più, è possibile che con un watt hai picchi di modulazione molto più alti, capito? È impossibile, perché la modulazione è anche leggermente satura. Quindi c'è qualcosa in più, per me c'è 7-8 watt con la radio blu. Allora, Intec, per me ci vuole... No, non dice c'è 5 watt, ma se ricordi sì. Fatta in Corea. Dietro è un po' sporca di ditate, ma niente di che. Sporca di ditate che fanno una patina bianca col flash, però... Eia... Sì, alla fine mi ha detto Massimiliano che dentro è come un 48, ecco, è né più né meno come un 48, come un ala 48 vecchio, old, vecchio modello. Nato c'è un segnale allucinante, più forte di quello che usi tu. Ripeti Natali, dammi un minuto che devo andare a fare la pipì. Fai la pipì. Natali, adesso sta uscendo meglio, ma è quello piccolino oppure... Non lo so io cosa può essere. Diciamo oppure? Diciamo. Infatti mi sembrava un po' troppo forte per essere quello lì, vabbè. Ho mandato le foto a Claudio anche di questo baraccocco. Così se lo ricorda, dai. Bene. Sì, si è fulminata la lampadina. Funzionava fino all'ultima volta, poi l'ho lasciato fermo un bel po'. Ho provato a dargli una scussulata, che me. Ma non si accende, si sarà fulminata, dai. Lui è poco che c'è una lampadina. Eia. Vabbè, col 3009 era più seccante, è la verità, perché... Bisognava tirarla fuori spostando roba un po', insomma, ora mezza rottura, ma niente di grave, dai. Poi in mezz'oretta l'ho tolta, l'ho cambiata, l'ho saldata, è una lampadina microscopica, io credo fosse una lampadina già lunga, che ne so, 8-9 mm, c'era una lampadina di tipo 3 mm, è piccola. Io ho capito, no, di quelle piccoline, insomma. Cioè di cacca proprio. Se ti fidi non riconosceremo di là. C'è un altoparlante piccolissimo dentro. Io stavo cercando di mettermi nello più grande, ma non andava. E beh, a Claudio dovevo mandare le foto, non le ha mandate, ho sbagliato io. Ho sbagliato qualcosa, adesso le seleziono, una, due, tre, quattro, sei, tutte, uno, tac, Claudio, tac, poi questo, e poi, ah ecco, è un brivo che bisogna premere, dai. Non preme il lui? Ecco, adesso le sta mandando. Sì, sì, ho sbagliato io. Ma quello che abbiamo fatto la cena, lo foto, non me lo mandi mai? Sì, le ho cancellate, non era niente di che, proprio erano buttate così, ma sono venute a mosse. Infatti Gianni mi ha detto, le foto c'è chi le sa fare, come dire che io non le so fare. Ma dimmi tu che non va a rompere le palle, cazzo. Allora, e poi picchi non ho molti, boh. Sullo Smitter sembra. O c'è lo strumento esterno, sullo Smitter non sembra, ma poi se controlli T e P, mamma mia, mamma di furti. E c'è il vattimetro pure, ma non è che abbia tutti questi grandi picchi, poi c'ho il macchina a metà, capito? MFG. Allora, sale massima di busso di 5 watt sale di picchio. Adesso salvo io di picchio perché me ne vado a cenare, e sono 8:30. Signori, statene bene, buon fine serata a tutti, ciao Massimiliano, Marco, Natalino, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, buon fine serata anche a lui, buon inizio settimana a tutti per domani, dai. Ci aggiorniamo signori, statemi bene, buonanotte a tutti. Aspetta. Ciao Club, un proseguo, le prossime. Segnale come? Con che cosa? Con questo? Sempre lo stesso? Sicuro? Questo che baracchino è? Quello di prima. Come 36, con picchi a quasi 32-33, si muove l'ago in avanti, mentre con quelli che hai tu sei fisso a 9:30. E c'ho la spia del stazionare a manetta. Non sarà quella là perché sei saturo, come mai? Ma cosa ne si occupo? Ma non ha cambiato niente, 9:30 con picchi positivi, sì, capito? Quindi. Va bene, dai. Va bene comunque quel baracchino, ottimo per la truppa, eccezionale, se vai un cignarone vai. Tu vedi, quello va bene anche per la radio, la radio è buona, sente bene, va bene, ottimo, ottimo, ottimo. Vabbè, dai, io vi lascio e vado a cenare che è pronto, ho già chiamato mia moglie, ci sentiamo ragazzi, ciao a tutti. Ehi, le foto le hai viste, sì? Sì, sì, ottime, ottime, sono un uovo, è perfetta quella radio. Lì da vecchia fa buon volo, io ce l'ho da 48 il primo e funziona sempre egregiamente, va con l'MB più 5 e con l'MB più 4 è favoloso il baracchino, capito? Va bene, sono, dovrebbe essere di quella serie lì, di quegli anni lì mio lo stesso, che avevo comprato, c'ho una vita dentro l'armadio. Va bene ragazzi, dai, a domani, ciao a tutti. Ehi, ciao Claudio, comunque questa è già la spia, devo controllare qualcosa, dai. Ciao a tutti, ciao Natalì. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, sembrava la 48, Marco. Oh, si accende. Oh, vabbè, ciao a tutti, ciao, ciao. Infatti stazionale non ce n'è qua. No, Santiago 9, lo Smith. Vabbè, ciao a tutti, ciao.